24 mattino, l'Italia si desta. E allora siamo qua alle 7:21 minuti, ben ritrovati per la lettura dei quotidiani in edicola, per la rassegna stampa. Se siete arrivati ora, eccoci qua, siamo in diretta fino alle 9, il nostro alpino Peter Bescapè è sempre in regia. Vi ricordo che oggi avremo ospite alle 8:15 Giuseppe Civati del Partito Democratico, uno dei giovani, per parlare un po' di queste primarie che arrivano, sono state fissate le regole, oggi sui giornali c'è molto anche su questo tema. Alle 8:30 parleremo di un tema molto molto profondo, molto importante, che riguarda il fine vita, vale a dire l'eutanasia, perché c'è una nuova campagna shock che ha molto colpito, con uno spot anche, aveva colpito anche qui in rassegna stampa, se vi ricordate l'avevamo citato dai giornali, AAA cercasi malati terminali. Uno spot dell'associazione Luca Coscioni che ha rilanciato il tema su questo dibattito etico profondo di cui vorremmo discutere alle 8:30, l'eutanasia. So che già la parola mette paura, e invece ne parliamo. Più avanti però, ora i giornali in edicola. È lunedì 8 ottobre, intanto i titoli dei giornali, il Sole 24 Ore apre sul fisco. Il fisco complicato costa 5 miliardi. Questo è il titolo di apertura con un'inchiesta che vedremo. Il Corriere della Sera, Regioni, la fabbrica dei posti, quasi 400 società partecipate. Il Messaggero, Regioni e Sanità, nuovi tagli. Per Repubblica invece un colloquio col ministro dello sviluppo economico Passera, patto per la produttività, ecco il piano del governo. Il Giornale invece attacca il bluff dei professori, l'agenda Monti non esiste. Per La Stampa invece primarie PD, primi scontri. L'Unità continua sulla sua campagna per la Tobin Tax, l'Italia frena l'Unione Europea. Roma fa asse con Madrid contro l'imposta sulle transazioni finanziarie, un'imposta invece richiesta a gran voce da qualche giorno dall'Unità. L'apertura invece del Quotidiano Nazionale, perché voglio partire da qui, è una vicenda che riguarda l'Emilia Romagna, un giallo. Il titolo è sopra la foto di un consigliere regionale, vale a dire Mandini dell'Italia dei Valori. Il titolo è I sacchi neri dell'IDV. Il giallo è questo, e da qui voglio partire perché oggi i giornali tornano a parlarne. Qualche giorno fa un consigliere regionale ha detto: un giorno alle 9 di sera ero da solo in regione perché era la festa patronale di Bologna, ho visto delle persone che portavano via dei sacchi neri dell'immondizia, erano vestiti bene, però non erano persone addetti alle pulizie. Allora subito è nato un giallo, perché questo consigliere è andato in procura a denunciare, proprio nei giorni in cui la Guardia di Finanza era arrivata alla sede della regione Emilia Romagna. Ecco qua che però nel weekend c'è stato un colpo di scena, perché un consigliere dell'Italia dei Valori, Sandro Mandini, consigliere regionale dell'Italia dei Valori, ha detto: il responsabile di quello spostamento di sacchi neri sono io, eccomi qua. È andato in procura e ha detto: ma che giallo, era solo spazzatura, carte gettate prima che arrivi la finanza. L'IDV dice: nessun giallo, solo spazzatura. Così a pagina 7 del Quotidiano Nazionale. Ma la vicenda ha un risalto nazionale, perché di questi tempi sapete, con quello che succede nelle regioni, anche a pagina 2 del Corriere della Sera c'è questa storia, per esempio raccontata: il consigliere dell'IDV va dai PM, i sacchi neri era solo spazzatura. Quale mistero dei sacchi neri? Era solo spazzatura. Così si difende il consigliere dell'Italia dei Valori nell'Emilia Romagna, che fa anche un'intervista a Repubblica. L'intervista la trovate a pagina 12. Sono io l'uomo dei sacchi neri buttati, volevo far trovare pulito ai finanzieri. Così dice in questa intervista Sandro Mandini, intervistato da Lorenzo Pleuteri. Ma che banda bassotti, altro che trafugatori di documenti bollenti, era solo spazzatura, pattume, rusco, come si dice a Bologna. I nostri bilanci li abbiamo messi online, noi non nascondiamo nulla e quegli uomini vestiti da fighetti che portavano i sacchi neri, come è stata la denuncia di un altro consigliere, sono quattro noti collaboratori dell'Italia dei Valori. Dunque getta acqua sul fuoco in quello che però è palesato come un vero e proprio giallo. Lui dice: nulla di strano, la Guardia di Finanza aveva chiesto a noi di produrre le copie di rendiconti, uscite, giustificativi. Per fare tutte le fotocopie ci abbiamo messo 2 giorni, siamo rimasti a mangiare in ufficio, in regione, un bivacco, la sede ridotta a una stalla, cartacce, avanzi di cibo. Venerdì sarebbero dovuti tornare i finanzieri per ritirare il materiale, così giovedì abbiamo pulito e portato via i sacchi della spazzatura. Ma non ci potevano pensare gli addetti alle pulizie, come sempre, chiede Repubblica. Giovedì non lavoravano, in città era festa, i finanzieri ci avevano detto che sarebbero arrivati l'indomani mattina, non volevano far trovare loro gli uffici sporchi. Ecco, questa è la giustificazione, ma certo è un giallo che per qualche giorno è stato alimentato anche da questa denuncia di un ex consigliere, per la verità uno fuoriuscito dall'Italia dei Valori, tanto che ora c'è una resa dei conti a dire l'ha fatto per vendetta, di sacchi neri portati via dalla regione proprio nei giorni in cui la Guardia di Finanza era lì a controllare. In ogni caso, prima della pubblicità vi volevo segnalare 2 articoli interessanti, visto che oggi è lunedì, ieri era domenica, allora immagino che molte persone, molti di voi abbiate anche lavorato, perché ci sono molte persone che lavorano la domenica, compresi i giornalisti, ma c'è un dibattito molto intenso anche sui giornali sul lavoro domenicale. Oggi l'Unità torna su questo tema, raccogliendo la protesta delle commesse, soprattutto i commessi dei centri commerciali. Qualche giorno fa un'iniziativa di alcuni che si sono anche denudati e hanno esposto questo striscione: ci avete tolto tutto la domenica, no grazie, e si sono presentati nudi. Ora ci sono sempre più commessi e commesse che protestano perché sono costretti a lavorare alla domenica. Basta festivi, ieri nuove manifestazioni in tutta Italia contro la legge che estende l'orario d'apertura dei negozi. Marco Ventimiglia racconta le proteste a pagina 8 dell'Unità, un po' sparse in tutta Italia. Su questo il giornale interviene a gamba tesa con un commento molto duro, una pagina di Marcello Zacchè dal titolo «L'Italia al lavoro, assurdo dire no al lavoro di domenica». Scrive Zacchè: è giusto o sbagliato lavorare di domenica? Il tema è tornato d'attualità proprio ieri, quando in molte città italiane il movimento Occupy Sunday ha organizzato manifestazioni contrarie, una sorta di sciopero delle commesse. Donne, mogli, fidanzate, ma anche uomini, mariti, padri sono scesi in piazza per contestare la possibilità dei datori di lavoro del commercio e della grande distribuzione in particolare di organizzare le aperture domenicali. Il principio è quello: lavorare o non lavorare la domenica? La risposta è semplice, secondo il giornale. Perché mai dovrebbe essere vietato? Vietato lavorare e vietato non lavorare. Sono entrambe 2 mostruosità. Qui non è in discussione il riposo nelle condizioni di lavoro. Il contratto garantisce 2 giorni di relax ogni 14, prevede una maggiorazione salariale del 30%, un massimo di 25 domeniche anno e deroghe per chi ha situazioni familiari o personali particolari. La questione è molto più di nicchia, riguarda un certo giorno della settimana e poche categorie di lavoratori, perché se ci pensate un attimo, c'è chi la domenica ha sempre lavorato: ferrovieri, piloti, assistenti e controllori di volo, tranvieri, tassisti, autisti, ristoratori, camerieri, cuochi, pasticceri, bigliettai del cinema, dello stadio, di teatro, di museo, dei treni, casellanti, benzinai, giornalisti, giornalai, tipografi, grafici, tabaccai, farmacisti, attori, acrobati, domatori, poliziotti, carabinieri, finanzieri, spazzini, facchini, chirurghi, infermieri, calciatori, allenatori, cestisti e pallavolisti. Più altrettante professioni che stiamo dimenticando. Insomma, c'è anche un'infografica per capire così come funziona nel mondo: in Germania, in Francia, in Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Israele o nei paesi musulmani anche, ovviamente dove lì il giorno di festività è il venerdì. L'Italia al lavoro, insomma, è giusto o no lavorare la domenica? Questo è un tema che trovate oggi sui giornali con questi 2 articoli e noi ci risentiamo con l'attualità economica e politica tra 5 minuti. Eccoci qui alle 7:36 minuti, allora i giornali. Oggi voglio partire da Repubblica, perché Repubblica fa un colloquio col ministro dello sviluppo economico Corrado Passera e il vice direttore Massimo Giannini, che raccoglie le sensazioni di Passera. Il titolo è Patto per la produttività, questo è il titolo di prima pagina. L'intervista poi continua a pagina 3 ed è questo quello che lancia come sfida: nelle prossime 2 settimane Corrado Passera, un grande patto per la produttività è forse l'ultimo sogno nel cassetto del governo Monti, visto che la campagna elettorale è già in pieno corso, condizionerà il finale di legislatura. Ed ecco il ministro dello sviluppo economico fissa l'obiettivo dell'agenda d'autunno. L'obiettivo principale è questo: un accordo tra governo, imprese e sindacati per riformare la contrattazione e puntarla sul rilancio della competitività del sistema Italia. D'altronde, ricorda Giannini, negli anni 70 il nostro paese guidava la classifica dell'OCSE come output per ora lavorata del settore manifatturiero, con una crescita del 6,5%. Nella prima decade degli anni 2000 siamo crollati all'ultimo posto. Ed eccolo qui, lo schema del ministro Passera sarebbe questo per rilanciare la produttività. Il governo non si limiterà a fare solo da arbitro del negoziato, ma metterà sul piatto qualcosa: la detassazione del salario di produttività. Le imprese e i sindacati da parte loro dovranno raggiungere un'intesa che ruota attorno a un diverso assetto della contrattazione. Quella di secondo livello, cioè il contratto aziendale, diventa preponderante, assorbe la quasi totalità degli aumenti salariali. Quella di primo livello, cioè il contratto nazionale, resta per la parte normativa, ovviamente, e anche per una minima parte economica che deve coprire l'inflazione attraverso una revisione del meccanismo di adeguamento automatico in base alle previsioni sull'andamento dell'indice dei prezzi. Si gioca tutto nelle prossime 2 settimane, fa sapere Repubblica, mentre sugli altri temi, due grandi questioni che restano sullo sfondo. La prima è la richiesta eventuale dello scudo salva spread. Al momento tutto è fermo, scrive Massimo Giannini, in attesa di capire le scelte della Spagna. E l'altro grande tema, quello della pressione fiscale, anche dentro il governo, scrive Giannini, il dibattito è in pieno corso, ci sono ministri che premono per risarcire i contribuenti onesti con i proventi dell'evasione, ma Monti non si piega. Entro questa legislatura non possiamo permettercelo. E anche il ministro del Tesoro Grilli sarebbe della stessa posizione quando dice non ci sono le condizioni. Comunque, Corrado Passera annuncia anche che l'asta delle frequenze TV si farà entro fine anno. Questo il sunto del colloquio con Repubblica. C'è da dire che perché non si investe oggi sia sul Sole 24 Ore, in prima pagina c'è un'inchiesta molto molto stringente. Il fisco complicato costa 5 miliardi. Comunicazioni, dichiarazioni, documenti, altri adempimenti, il conto delle complicazioni fiscali arriva a 5 miliardi di euro. Questa è la spesa complessiva della burocrazia tributaria calcolata per il Sole 24 Ore del lunedì. Sono 108 gli adempimenti, la lista inviata dall'Agenzia delle Entrate in consultazione alle categorie produttive e professionali, e trovate a pagina 2 e 3 tutti i dettagli del perché di questo costo di burocratico che arriva appunto a 5 miliardi con oneri occulti su imprese e cittadini, poi blocca la produttività. Volete un altro dato che fa capire, e lo scrive Francesco Grignetti sulla Stampa pagina 9, come l'Italia sia in difficoltà? Bene, giustizia lumaca, 18 miliardi persi. Ci sono tempi record per le controversie tra le società, ecco perché gli investitori stanno alla larga dal paese. C'è questo dato su tutti da tenere bene in considerazione, vale a dire che l'1% di PIL viene perso per le aziende che sarebbero anche intenzionate a investire in Italia, ma non lo fanno perché poi le controversie burocratiche, le controversie legali creano problemi. Sono 18 miliardi di euro che potrebbero essere investiti e che invece non ci sono, cioè ci sono multinazionali che rinunciano ad aprire fabbriche o filiali da noi perché terrorizzate dalla prospettiva di affrontare 41 passaggi per risolvere una controversia commerciale. Peggio di noi fanno solo Brasile e India. In Irlanda, tanto per dire, bastano metà degli adempimenti. Insomma, tutto questo lo si sa, ma forse si fa poco evidentemente per risolverlo. Intanto il sottosegretario Catricalà annuncia che cosa? Annuncia la nascita per combattere la corruzione, la nomina di che cosa? In Italia spesso si fa in questi casi, quando si è in queste situazioni, si nomina un supercommissario, il commissarione. Hanno nominato Bondi supercommissario, hanno nominato Giavazzi commissario per i finanziamenti alle industrie, hanno nominato Giuliano Amato come commissario per vedere il finanziamento ai partiti. Eccolo qui, Catricalà, intervistato da Alberto Gentili dal Messaggero, sul Messaggero a pagina 3, anticorruzione, arriva un supercommissario. Questo è il nuovo passo del governo, senza creare nuove authority, ma ci sarà un commissario contro i corrotti, scelto dal governo, eletto dal Parlamento con la maggioranza qualificata dai 2/3, dovrà avere poteri ispettivi effettivi e denunciare i casi di malaffare nell'amministrazione pubblica, questo per non far gravare tutto sull'autorità giudiziaria. Attualmente invece la CiVIT può solo fare una relazione al Parlamento ed è davvero troppo poco. Io ricordo, così vado a memoria, che fino a qualche anno fa avevamo un commissario con l'anticorruzione. È stato praticamente depotenziato e cancellato. Ora viene rimesso un super commissario contro la corruzione. Questo è. Detto che Catricalà però si auspica anche il disegno di legge che passi subito. Il passo successivo sarà ridurre i poteri delle regioni. Questo Catricalà. Intanto, a proposito di industrie che non investono, industrie che chiudono, c'è tutto il tema riguardante l'Ilva. C'è stata un'accelerazione, secondo il governo, anche rischiosa, ma non solo secondo il governo. Questo per esempio è il titolo di apertura del Secolo XIX, riguarda la possibile chiusura entro 5 giorni dell'Ilva di Taranto. Ma perché il Secolo XIX titola questo? Perché ora rischia anche Genova, gli impianti di Genova e di Novi, perché dipendono in tutto come stabilimenti da Taranto. L'Ilva entro 5 giorni deve chiudere. È ormai ufficialmente partito il conto alla rovescia, scrive il Secolo XIX a pagina 5, perché una direttiva della Procura di Taranto notificata sabato dà 5 giorni di tempo per spegnere gli impianti dell'area caldo sequestrati il 26 luglio. Ovviamente anche il sindaco di Genova, temendo, dice, una decisione dei PM assolutamente grave. Il Corriere dedica 2 pagine a questo, pagina 5 e 6. Tra l'altro c'è il ministro all'ambiente Clini che dice: attenzione, perché in realtà tra domani e l'11 ottobre il governo è pronto a dare l'autorizzazione integrata ambientale che la legge stabilisce per consentire l'esercizio delle attività industriali, la nuova autorizzazione integrata ambientale. Quindi anche il ministro Clini dice è sbagliato ciò che i PM stanno facendo. Perché? Perché stiamo mettendo a punto questa nuova AIA, come è chiamata in acronimo, e non sarà certo una carezza per l'Ilva di Taranto, fa sapere il Corriere della Sera, nel senso che le prescrizioni perché il polo siderurgico più grande d'Europa possa continuare a produrre acciaio si annunciano le più severe d'Europa, secondo il ministro Clini. Infatti la nuova AIA prevederà la fermata immediata di alcuni impianti, la riduzione della produzione, lo stop in tempi più lunghi degli altri reparti sotto sequestro del 26 luglio. Queste sono le linee guida, i dettagli si conosceranno solo nei prossimi giorni. E quindi il ministro dice: è sbagliata questa accelerazione dei magistrati che chiedono di chiudere entro 5 giorni, anche perché denunciano può essere un processo irreversibile una volta che vengono chiusi questi impianti e poi difficile farli ripartire. Ma la procura è stata netta: entro 5 giorni l'Ilva deve chiudere. Questo l'ha detto sabato, dunque entro mercoledì, e ovviamente una corsa contro il tempo. Il traffico, poi ripartiamo dalle regioni e dalla battaglia all'interno del Partito Democratico per le primarie. Eccoci qua, allora, le primarie del PD. sono state stabilite le regole, anche se sono regole un po' confuse, un po' oscure per voce stessa di alcuni del Partito Democratico. Ieri l'ultimo attacco a Renzi è arrivato da Nichi Vendola, che ha detto è lui da rottamare, lui e il suo modello culturale liberista. Un altro attacco che affonda invece nei sospetti del complotto nei confronti di Renzi riguarda il suo finanziamento, il finanziamento alla sua campagna in giro con il camper per le 108 province italiane. Ed ecco che ha iniziato a attaccarlo Ugo Sposetti, ex tesoriere dei DS, a dire: ho fatto un po' i calcoli, avrà già speso oltre 2 milioni di euro. Dove prende i soldi Matteo Renzi? Eccolo qui. Sui soldi è l'ora dei sospetti. Pagina 9 del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli racconta le voci tra gli anti-Renzi, soldi da Israele e dall'America. Tanto che il Corriere della Sera scrive un vero e proprio complotto giudo-plutaico-massonico. I finanziamenti arrivano da Israele e dalla destra americana. Perché mai Romney e Netanyahu dovrebbero pagare il sindaco di Firenze? Beh, a questa domanda i detrattori non rispondono. Lui, Matteo Renzi, invece che fa? È in giro per l'Italia. Michele Brambilla sulla Stampa l'ha seguito sul camper per un'ora da Foggia a Campobasso, un'ora di strada, 20 minuti dedicati all'intervista. E racconta oggi sulla Stampa in prima pagina nel camper col sindaco di Firenze. Eccolo qui, si concede qualche minuto di decompressione, dammi qualche minuto. Inizia così il colloquio con Michele Brambilla. Eccolo qua, la Fiorentina ha vinto, gli dicono, mentre lui si sta ancora resettando. Bene, una buona notizia. Ora si va a Campobasso, poi alle 21 a Isernia, erano a Matera. Per favore, questa sera evitiamo di mangiare ancora pizza, che ci stiamo gonfiando in modo pazzesco. Beh, un racconto ovviamente di quella che è la vita quotidiana di Matteo Renzi sul camper. Eccolo qui, telefona alla moglie. Come stanno i bambini? Hanno esultato dopo il gol? Come ha giocato la Fiorentina? Poi guarda un po' i siti internet. Ah, la Iervolino ha detto che sono un cialtrone. E poi arrivo a casa verso le 4 di notte, ma non so se ho le chiavi. Poi saluta la moglie, mette giù. Ed eccolo qui, parla un po' poi con il giornalista Michele Brambilla della situazione. Intanto risponde a Vendola: io sono tranquillo, però per esempio avrei voluto evitare il secondo turno, ma sono tranquillo e mi fa piacere che abbiamo dato a Bersani l'occasione di cominciare a smarcarsi dai suoi. E poi risponde così a Vendola: ieri l'ho chiamato Nichi, è stata una telefonata affettuosa, con lui ho un buon rapporto, ma non mi convince questa abitudine di dare dell'altro un'immagine falsa, come questa storia della campagna elettorale faraonica. Ma di che stiamo parlando? Io sto girando l'Italia con un camper, altro che faraonica. Abbiamo messo online tutti i contributi. E ancora la Bindi dice che sono berlusconiano, Vendola un liberista, la Iervolino mi dice del cialtrone, Sposetti che ho speso 2 milioni per le primarie. Quando capiranno che tutto questo mi porta solo voti sarà troppo tardi. La gente è stanca di tutte queste cose. Poi vabbè, un Renzi che arriva a Campobasso, quale giacca mi metto, quale camicia mi metto, quella blu, maniche alzate, maniche abbassate, insomma un racconto di una giornata o comunque un'ora e mezza in camper con Matteo Renzi. A proposito di regole, però, quali saranno le regole? Ancora non si sa. Lo stesso Arturo Parisi, intervistato dal Quotidiano Nazionale, Arturo Parisi del Partito Democratico, e dice: ci si potrà iscrivere all'albo degli elettori contestualmente al voto? È il punto più oscuro delle regole. Ma come? E poi al secondo turno, siccome saranno due turni, potrà votare chi non ha partecipato al primo? Delle regole oscure, questa è la più oscura. E insomma, non è che è ben chiarito come si svolgeranno queste primarie. D'Alema invece segnalo che ha tuonato, come racconta Goffredo De Marchis a pagina 7 di Repubblica: quella di Renzi è un'aggressione. Così D'Alema, che insieme a Veltroni ha la tentazione del ritiro, ma la decisione spetta al partito. Tra l'altro, partito che ha cambiato le regole per far partecipare Renzi, perché in genere partecipa solo il segretario premier, il segretario del partito alle primarie del centro-sinistra. Sono state cambiate le regole per permettere di far partecipare anche Renzi, ci mancherebbe altro, ma nelle regole cambiate è stato anche allargato il limite dei 3 mandati Sapete che il Partito Democratico era l'unico che aveva messo mettere il limite dei 3 mandati, perché hanno fatto una questione di lana caprina, dire: ma il limite dei 3 mandati vuol dire 3 legislature comunque finiscano, oppure il limite dei 3 mandati pieni, cioè 5 anni, quindi 15 anni? Ovviamente hanno previsto questa seconda opzione. Quindi con questa seconda opzione molti del PD sono ricandidabili, perché non hanno fatto 3 mandati pieni. La scorsa legislatura è finita, quella di Prodi è durata 2 anni, quindi quella conta 2 anni, non un mandato, ma 2 anni. Vabbè, allargato il limite dei 3 mandati, i democratici ora tutti ricandidabili, così titola Repubblica a pagina 6. Abbiamo un minuto, io voglio ricordare che c'è un blogger che è stato condannato a 5.000 euro, una vicenda Sallusti in piccolo, niente carcere, la trovate sul Giornale a pagina 9. Ha diffamato il trota Renzo Bossi, si chiama il blogger Michel Abbatangelo, condannato per diffamazione dal giudice di Varese, dovrà pagare 1.000 euro di sanzione, 5.000 di risarcimento, 2.500 di spese processuali. Ha diffamato il trota. Devo leggere per dovere anche la Gazzetta. No, Peter Bescapè fa sempre: no, noi siamo più forti di queste cose. Samuel Forza 10, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport per la vittoria del derby dell'Inter sul Milan, anche perché c'è questa regola, Peter, quando segniamo contro le grandi squadre tipo Juve o Inter a San Siro non vale, il gol non vale, è una regola bizzarra, ma in questi momenti difficili dobbiamo fare i conti anche con queste cose, non valgono. Il Giornale Radio.